Se uno va a vedere i dati riportati dalla relazione del CNR fatta per Autostrade, si dice, nero su bianco, è che gli elettrofiltri su strada riescono ad abbattere l'80-90% del particolato. Poi si dice che non arrivano all'efficienza degli elettrofiltri fatti su impianti industriali, che però sono un'altra partita, e che arrivano al 99.9 secondo questa relazione. Ma per quanto ci riguarda, abbattere 9 particelle su 10 è più che sufficiente, insomma, anche in considerazione del fatto che abbatteremmo la gran parte delle particelle del tunnel, anche perché poi, diciamo, il resto della città continua a emettere, quindi non stiamo parlando delle specifiche di un impianto industriale che richiede di emettere, diciamo, aria più pulita possibile all'interno dell'atmosfera. Stiamo parlando di emissioni da traffico e la possibilità di ridurre, passando da 10 tonnellate in quel tratto a una tonnellata, mi sembra un risultato in linea con quanto ci eravamo detto, ecco, quanto era importante. Tra l'altro, gli elettrofiltri hanno due funzioni, no? L'abbattimento in tunnel. La prima è contribuire a ridurre complessivamente le emissioni di un tratto di un'opera come può essere il passante da tangenziale. La seconda è evitare, diciamo, che il tunnel concentri nell'uscita e quindi nei luoghi vicini all'uscita gli inquinanti che poi quindi andrebbero a impattare su quelli che si trovano in prossimità dell'uscita dei tunnel. Queste sono le due funzioni e entrambe le cose, abbattere il 90% risponde in maniera adeguata o comunque ci sembra importante, ecco, se non proprio, come dire, migliore possibile. Quindi di fatto quella valutazione qualitativa in realtà si scontra con l'elemento di efficacia che per quanto riguarda quest'opera è utile. Se a livello industriale l'efficacia è praticamente del 100%, a livello stradale scende al 90%, che comunque è altissima. Esatto, questo è il senso. In ogni caso, appunto, di questi sistemi riguardano le PM e gli ossidi di azoto, c'è poi la questione della CO2. Ma sai, la CO2 è un problema globale, non è un problema locale, no? Cioè il problema del passante e della tangenziale è l'inquinamento acuto in prossimità dell'opera, mentre la CO2 non ha un effetto di inquinamento localizzato, ha un effetto di cambiamento del clima a livello globale, quindi lì contro le emissioni complessive. L'altro elemento a tenere presente è che in realtà questo pezzo di mitigazione si unisce a una serie di altre mitigazioni, appunto i 36.000 alberi, l'altra parte di verde, si unisce con la parte relativa al 50 MW di fotovoltaico, che certo una parte potrebbe essere utilizzata per dare energia agli elettrofiltri, ma questo è un elemento utile di sostenibilità, no? Ma l'altra parte risulta in riduzione di emissioni, quindi diciamo il quadro delle mitigazioni va visto complessivamente e ciascuna risponde a un paio di esse e complessivamente l'opera risulta mitigata, che poi qualcuno possa pensare, diciamo, e questo secondo me è lecito, che forse sarebbe meglio non farla, però questo è un elemento più politico, che non riguarda l'impatto. Non riguarda l'impatto perché di fatto le emissioni della tangenziale dell'autostrada ci sono già. Allora, insomma, a cosa sono dovute le obiezioni di Autostrade? Vuole spendere meno? Io penso che Autostrade miri a semplificarti la vita e a spendere meno. Di fatto mi sembra che già nella prima parte di discussione sull'opera, nel primo documento, diceva che era della qualità. La qualità dell'aria a Bologna è abbastanza buona, tutto sommato. Poi durante il percorso ha corretto, ma questo era il suo passaggio fondamentale. E se guardiamo anche nell'articolo del Corriere, no, viene citato il fatto che Autostrade pensa che con Euro 6, con le macchine elettriche, il problema possa essere risolto. Quindi ancora, diciamo, non è che propone alternative. Dice sostanzialmente che il problema non c'è. Io non so se andrei dietro, ecco, ad Autostrade su questo punto, perché in effetti, diciamo, è controproducente per la città. In realtà il problema c'è. Il problema c'è anche con Euro 6 e con l'auto elettrica, ad esempio sul particolato, perché una quota significativa di particolato viene dall'attrito dei pneumatici sulla strada e questo, visto che ancora le macchine camminano su strada, non lo elimineremo con le auto elettriche, anzi in qualche modo quel pezzo lì rischia anche di essere aumentato perché pesano leggermente di più, ma questo poi insomma sono calcoli che in questa fase lasciano il tempo che trovano. Poi c'è l'altro pezzo relativo a tutto il trasporto merci, che assolutamente ancora per 15-20 anni rischieremo di trovarci sicuramente non elettrificato, e quindi, nonostante noi stiamo facendo percorsi anche in Italia, all'estero, persino il passante prevede degli strumenti che possono aiutare a velocizzare il cambio anche del trasporto merci, come la ricarica dinamica, questo ancora di fatto è un po' non all'orizzonte, e quindi i trasporti pesanti che incidono per il 50% sulle emissioni rischiano di averle ancora per lungo tempo, per cui ha senso mitigare e ha senso farlo nel migliore modo possibile. Tra l'altro il documento del comune mi sembra che citi non solo gli elettrofiniti ma le BAT, che sono le migliori tecnologie disponibili, per cui se Autostrade ha in mente altre tecnologie migliori degli elettrofiniti, che li tiri fuori. Certo, non può essere invece giustificabile il fatto che dica, ah, vabbè, tanto poi ci penseremo cambiando la motorizzazione delle auto.